lasciammo così, senza dir parola, senza dire quel dì, una frase sola. Sei lontana da me, ma però nel cuore, io non penso che a te, chi lo sa perché. Ed anche tu mi pensi ancora, ancor di più, di più d'allora. Ci lasciammo così, senza dir parola, ma dal cuore quel dì l'amor non fuggì. Solo nell'ombra turchina del vecchio abat-jour io penso al cor, al nostro amor. Passa nel cuore un ricordo del tempo che fu, e penso che ti stringo a me. Ci lasciamo così, senza dire parola, senza dire perdì. La frase sola, sei lontana da me, ma però nel cuore, io non penso che a te, chi lo sa perché. Ed anche tu mi pensi ancora, ancor di più d'allora. Ci lasciammo così, senza dir parola, ma dal cuore quel dì, l'amor non fu.